Oggi in Italia ci sono 10 milioni, più di 10 milioni di accessi a internet con tecnologia ADSL. In Italia ci sono circa 22 milioni di abitazioni, quindi abbiamo una penetrazione circa del 50%, un po' più del 40% rispetto alle abitazioni del paese. I problemi che ci sono con la tecnologia ADSL sono di duplice natura. Purtroppo, questi sistemi sfruttano i doppini telefonici. I doppini telefonici, mano a mano che la velocità della DSL aumenta in termini di capacità di trasmissione down, i famosi 10 megabit della DSL 2 più, mano a mano che la velocità aumenta e la numerosità dei collegamenti aumenta, presentano gravi inconvenienti. In altre parole, in un cavo con tanti doppini, più ADSL metto, ho un limite, non lo posso riempire al 100%. Quindi da un lato la tecnologia ha delle sue limitazioni che incominciano a farti sentire nelle grandi aree metropolitane. Sto parlando di Milano piuttosto che Roma, piuttosto che Torino. Dall'altro lato gli esperti parlano del fatto che con l'internet che si apre alla videocomunicazione, i famosi 10 megabit, diciamo, down dell'ADSL non battono più. Il primo di aprile del 2008 in Giappone hanno inaugurato il primo servizio commerciale NGN, Fiber to the Home, offrendo all'utenza finale una capacità di 1 gigabit al secondo. Quindi una capacità che è 100 volte più grande di quella che oggi viene offerta in Italia. Questo in alcune case giapponesi Allora, con in Giappone l'intenzione di... c'è un piano nazionale che si chiama Ubiquitous Japan che porta al 2010 al 100%, alla copertura del 100% delle abitazioni del paese con fibra che arriva fino all'appartamento, fiber to the home, e una capacità teorica che oggi è di 1 gigabit, domani di 10, dopodomani di 100 gigabit. Questo è un piano nazionale sponsorizzato dal governo come politica industriale, costa 40 miliardi di dollari, stiamo parlando di 40 milioni di famiglie in Giappone e circa 1000 dollari per famiglia. E il governo giapponese ha stimato una ricaduta sul paese in termini di incremento del PIL del Giappone di 1.500 miliardi. Allora, l'idea qual è delle NGN? Le NGN sono sia fisse che mobili, spesso vengono confuse con la fibra che arriva all'abitazione per il collegamento fisso, ma in realtà il futuro porta ai sistemi di quarta generazione, noi li chiamiamo sistemi Long Term Evolution, LTE, l'evoluzione dell'UMTS, per cui le celle di questi sistemi all'interno delle aree metropolitane sono molto piccole e quindi ci sono molti pali, molti access point, molte base station e queste devono essere connesse per forza con delle fibre ottiche al fine di offrire all'utente mobile 100 megabit di capacità in mobilità. Si dice che una rete NGN offre come minimo 100 megabit fissi e mobili agli utenti, diciamo in particolare nelle grandi aree metropolitane.